9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety. Eccoci qua, buon martedì, cresce la protesta per la manovra, no, per questo pezzo di inizio dei Doors. Alcuni dicono vabbè, abbiamo capito, però adesso basta, sono arrivate le misure del governo, gli spread scendono, beh, l'ho sempre detto e lo ripeto, lo terremo fino a che l'euro rischio è aperto, ed è aperto non solo perché l'Italia ne costituisce o ne costituì, va detonatore, ma perché è l'intera euroarea che deve prendere delle decisioni. Allora ripristiniamo oggi la rapida rassegna stampa prima di arrivare al punto, all'esame da parte di due esponenti del PD e del PDL della manovra in Parlamento varata dal governo Monti. Ripristiniamo la rapida visione sulla stampa europea, su il procedere verso l'eurovertice del 9 di dicembre. Allora, ieri l'incontro di Angela Merkel e di Nicolas Sarkozy, essenzialmente su che cosa ha registrato una convergenza in vista dell'Eurovertice? Su 6 punti. Il primo riguarda le sanzioni automatiche nelle procedure di bilancio e in chi sfora il limite del 3% di deficit. Ecco, il punto d'accordo è che in caso di non rispetto della regola sul deficit i paesi sono soggetti a sanzioni automatiche, e queste sanzioni automatiche richiederebbero una maggioranza dell'85% per essere aggirate o evitate, non aggirate, evitate. Secondo punto di accordo, la Golden Rule. Tutti i paesi membri dell'Unione Europea, perché la finalità è quella di raggiungere un accordo tra i 27 membri, non solo tra tutti quelli dell'euroarea, tutti devono sottoporsi a questi limiti sulle procedure di bilancio, con la Corte di Giustizia che è chiamata a giudicare in caso di disputa. I francesi hanno preferito chiarire che mai la Corte di Giustizia potrà arrivare al punto di fare decadere dei bilanci votati dal Parlamento, ma in ogni caso passa il principio di convergenza tra francesi e tedeschi, per il quale la Corte di Giustizia è competente in caso di disputa, cioè di infrazione rispetto al limite del 3%. Terzo punto di convergenza, la partecipazione dei privati ai salvataggi, cioè quella per la quale per esempio in Grecia i detentori di carta pubblica greca si sottopongono al cosiddetto haircut, il taglio dei capelli, tra il 50 e il 60% del capitale in scadenza dei titoli del debito pubblico, partecipazione che come sapete è stata lanciata come volontaria, in realtà è pressoché obbligatoria. Comunque, su questo terzo punto, la partecipazione dei privati, si è deciso di seguire la regola che vale per i salvataggi o gli interventi del fondo monetario. Lo schema di accordo è quello per il quale appunto la partecipazione volontaria prevista per il caso greco rimane valido, ma deve essere un caso unico destinato a non ripetersi. Quarto punto di accordo, la Germania e la Francia concordano sul fatto che l'ESM, cioè il meccanismo di stabilizzazione europea che doveva entrare in vigore nel 2013 dopo l'FSF, quello attuale, che come si è visto non è stato identificato dal mercato come un valido argine alla crisi dell'euro, ecco, concordano invece che l'ESM debba essere anticipato all'anno prossimo, al 2012. Quinto punto di accordo. I capi di Stato e di Governo dell'euroarea dei paesi che convergono si devono riunire una volta al mese per un punto economico dell'euroarea. Sesto, perché sia chiaro per tutti, non ci saranno né ora né mai eurobonds. Cioè, su questo inutile illudersi. Allora, queste proposte richiedono dei cambi sostanziali del trattato. E quindi la sorpresa di tutti è credere che questo procedimento di adozione di questi 6 punti possa essere così rapido come dicono i franco-tedeschi, perché un cambio del trattato richiederebbe una convenzione secondo le regole attuali, a meno che il Parlamento europeo dovesse decidere diversamente, procedendo subito alla proposta di adozione di modifiche che poi dovrebbero essere adottate dai diversi paesi, con la possibilità che alcuni di essi, esplicitamente sui temi europei, lo prevedono le norme, come in Irlanda per esempio, in altri paesi possano procedere a dei referendum i cui esiti sarebbero molto a dubbio, naturalmente, visto quello che pensano le opinioni pubbliche della tenuta dell'euro e le responsabilità dell'eurocrazia in merito alle stangate e la deflazione, per osservare nei momenti di difficoltà come quelli che viviamo le regole della convergenza sulla virtù del deficit pubblico. Quindi c'è un punto aperto che riguarda un po' tutti i maggiori osservatori europei, che si chiedono come queste 6 regole possano essere adottate. Altre osservazioni in breve. Financial Times, richiamo Standard & Poor's, che ha messo tutti i 6 paesi che hanno la tripla A in un outlook negativo, quindi resta, come vedete, il rischio molto forte sul mercato. Poi sui giornali francesi continua il dibattito sulla germanofobia, che è andato avanti nelle ultime settimane. Le Figaro fa un bel pezzo sul fatto che i toni che gli esponenti dell'UMP e del Partito Socialista francese hanno ottenuto in queste settimane nei confronti della Germania sono praticamente senza precedenti dalla fine del secondo conflitto mondiale. C'è un divertente articolo sul Daily Mail, Daily Mail, che dedica appunto un pezzo a tutti i richiami dei diversi paesi europei e sul tema dei tedeschi visti come il Quarto Reich. E in Grecia, per esempio, scrive il Daily Mail, la situazione attuale è spesso descritta dai giornali greci o dai politici greci come la seconda occupazione, e poiché il capo della task force europea si chiama Horst Reichenbach, allora sui giornali greci viene nominato il terzo Reichenbach tutte le volte che il capo della squadra dei commissari dell'Unione Europea va ad Atene. Proprio per questo Hollande, il capo del Partito Socialista, scrive Le Monde, si è reso conto in questi giorni di avere un po' esagerato, e anche altri esponenti del suo partito, e quindi si è pronunciato ieri, scrive Le Monde, per un rapporto franco-tedesco più bilanciato. Al contrario, se vi prendete il Bild, il giornale popolare tedesco che arriva ad avere fino a 10 milioni di lettori quando vende particolarmente bene, di lettori, non ho detto di copie vendute, ma il capo della redazione di Berlino, Nikolaus Blome, scrive oggi invece un articolo, un editoriale sottotitolo "La Germania deve guidare", e che non ha molti dubbi invece rispetto a questi toni francesi o quello che scrive il Daily Mail sul Quarto Reich tedesco. È interessante anche quello che scrive il Frankfurter Allgemeine, che ci informa che il SOFIN, che è il fondo finanziario usato dalla Germania per i salvataggi e gli interventi nel capitale delle banche nella prima fase della crisi post Lehman, viene rifinanziato fino a 400 con 70 miliardi di capitale, quindi garanzie fino a 400 miliardi, e questo fa chiaramente intendere che stiamo entrando in una nuova fase in cui interventi diretti nel capitale delle banche potrebbero essersi resi necessari anche in Germania, e del resto stiamo aspettando le nuove valutazioni che verranno dalla EBA, dall'autorità bancaria europea, questa settimana, intorno a stime di capitalizzazione aggiuntiva per le banche europee. Ci si attende che, scrive Financial Times Deutschland, che la Banca Centrale Europea guidata da Mario Draghi abbassi ulteriormente il tasso di interesse, e questo mi pare abbastanza per la giornata di ieri, che ha visto scendere gli spread sulla corsa dell'Italia verso il basso, finalmente un pochino in tutta Europa. Eccoci qua ora con i nostri ospiti, e quindi io passo la palla a loro per chiedere come in Parlamento, dal loro punto di vista e su questo quadro dell'Eurovertice che si avvicina con un'Italia con un biglietto da visita che è quello della manovra del governo Monti, Monti come ritengono che le cose vadano giudicate dal loro punto di vista. Abbiamo con noi Guido Crosetto, che è deputato del PDL e ex sottosegretario alla difesa del governo Berlusconi. Buongiorno e grazie a Guido Crosetto. Buongiorno a lei. Ed Enrico Morando, che è senatore del PD e componente della commissione del bilancio a Palazzo Madama. Buongiorno a Morando. Buongiorno. Allora Crosetto, dal suo punto di vista cosa va, cosa non va e come comportarsi rispetto ai punti più importanti della manovra al vostro esame presentata dal governo Monti? Ma io ho l'impressione, lo dico in modo sommesso, che stiamo proseguendo gli errori delle altre due manovre. Cioè, ho l'impressione che abbiamo risposto ancora una volta in modo serissimo all'Europa, che ci chiedeva un maggior rigore sui conti, che poi ha significato un aumento di entrate per arrivare al pareggio di bilancio con certezza, e dall'altra parte ci siamo dimenticati che a furia di togliere sangue il paziente può anche avere dei problemi. Quindi senza crescita, senza qualcosa che faccia capire a tutti quelli che devono pagare i sacrifici che c'è la possibilità di crescere, che ci sono degli strumenti innovativi, che sta cambiando qualcosa nel paese, nella pubblica amministrazione, nello Stato, nelle regole di una burocrazia che è la peggiore del mondo. Cioè, se non c'è nulla di positivo o che faccia in qualche modo semini speranza e volontà di investire negli imprenditori, che sono quelli che producono poi la ricchezza del paese e producono i posti di lavoro, beh, difficilmente questa manovra può avere risultati sul medio e lungo termine positivi per il paese, ma anche sul breve. Ecco, il prossimo anno io non so che fine farà il prodotto interno lordo italiano. Io a agosto dissi una cosa e fui attaccato, e dissi: beh, io sono convinto che, stante queste due manovre di Tremonti, allora il PIL decrescerà. Se così non sarà, io mi dimetterò il prossimo anno. Se sarà così, si dimette a Tremonti. Purtroppo la scelta è stata anticipata, purtroppo per fortuna non lo so, è stata anticipata, ma al di là di quello questa manovra continua con gli effetti negativi delle altre due, perché è soltanto un aumento di tasse, di pressione fiscale, senza nulla, almeno da quello che si è sentito ieri, e poi bisogna leggerla, perché nessuno di noi aveva ancora avuto modo di leggerla, di vederla nei dettagli, non niente di positivo per la crescita. Quindi lei dice, insomma, le misure di finanziamento triennale per l'IRAP, che ha una componente, sì, lavoro, che viene detassata ha un impatto indiretto su questo per la crescita, non basta. Quello che conta è che sono troppe tasse. Vediamo la prima impressione del senatore Morando invece sul segno della manovra e su cosa fare in questo quadro europeo. No, il segno della manovra io penso che sia positivo e non sono d'accordo con questo giudizio che sulla manovra stessa ha dato il senatore Crosetto. Io sono impegnato con il mio gruppo parlamentare naturalmente a ipotizzare qualche aggiustamento della manovra, ma la manovra va approvata molto rapidamente per consentire all'Italia di partecipare a questa fase del confronto europeo che lei ha descritto in modo, secondo me, molto efficace attraverso una sorta di rapidissima rassegna stampa che ho ascoltato prima, e che è ormai giunta alle decisioni cruciali, cioè nelle prossime ore si decide di fare un salto sul versante dell'unità fiscale dell'Europa. Ed è questa, se ho capito bene, la posizione della Merkel e della Germania, prevalente, diciamo, in Germania. E allora però dice la Merkel, e secondo me ha ragione, bisogna che questa unità fiscale si realizzi attraverso riforme dei trattati e regole automatiche di penalizzazione dei paesi inadempienti. Oppure si torna indietro, ma allora c'è il collasso dell'euro, c'è la rottura dell'unità monetaria. Da questo punto di vista la posizione dei francesi, che lei descriveva, della Francia, che lei descriveva molto efficacemente attraverso quello che gli stessi giornali francesi scrivono della Germania, sta diventando un poco più problematica, perché dopo questo gran parlare di Mercosur, diciamo, no? Cioè del duo che dirige l'Europa, sta sta emergendo che i francesi vogliono sì gli eurobond, vogliono gli interventi anticiclici dell'Europa, e fin qui va benissimo, ma non vogliono accettare il salto di qualità sul versante della cessione di sovranità verso istituzioni europee in grado di fare rispettare davvero gli accordi che si concludono. Per cui io penso che se l'Italia con questa manovra ha riacquistato, e forse ha riacquistato, un pezzettino di della credibilità rovinosamente perduta nel corso di questi ultimi anni, allora noi possiamo partecipare a questo confronto europeo, tra l'altro, per come la vedo io, dal lato della Merkel piuttosto che dal lato di Sarkozy. Crosetto, quando in realtà il segno prevalente delle interviste rese dagli esponenti del PDL, dagli ex membri del governo, ci sono articoli che riferiscono della sua posizione, c'è un'intervista sul Corriere per esempio dell'ex ministro del lavoro Sacconi, c'è un'intervista di Lupi, il tono prevalente varia, per così dire, cioè si va da chi assume in proprio la responsabilità, di cui Silvio Berlusconi sta dando prova, invitando i gruppi del PDL ad abbassare i toni, a dare un leale sostegno all'approvazione, dicendo ci sono cose che non ci piacciono, ma bisogna non fare sbavature agli occhi dell'opinione pubblica internazionale e italiana. E poi ci sono altri esponenti che invece, come lei, più esplicitamente richiamano le critiche, come quella che ha detto prima, altri entrano nel merito, dicono l'ICI no, è una contraddizione troppo forte rispetto alle nostre scelte e così via. Le chiedo, è una strategia pensata quella di diversificare il ruolo di maggiore, per così dire, rotondità istituzionale e di senso di responsabilità delle parole rispetto poi a chi su questo si distingue con un tono più tagliente, più aperto, più esplicito nella critica, pensando al futuro, al centrodestra e al PDL del futuro, magari anche a non perdere il collegamento con la Lega, oppure è semplicemente una scoperta quotidiana del ruolo che ciascuno può avere nella costruzione di una centrodestra, di un PDL diverso dal passato, in cui la regola può essere anche sciogliere le righe, perché si pensa in libertà prima poi di vedere qual è il condensato di pensiero, per così dire. C'è una regia o è l'effetto della maggior libertà rispetto alla responsabilità di governo? Beh, ecco, come lei sa, io ho abusato della libertà anche quando facevo parte del governo, quindi le cantava chiaro. La cosa mi è abbastanza facile, vede? Ma poi io non divido le cose, cioè il senso di responsabilità che chiede il momento presente, come ci richiamava prima Morando, non è che io non ce l'abbia, cioè, non è che io penso di far saltare questa manovra. Io penso che questa manovra possa essere corretta. Io penso ancora che il governo possa fare una proposta, che il governo non abbia ricevuto dal Monte Sinai le tavole della verità, ma abbia fatto una proposta seria, interessante, perfetta, che io non l'avrei neanche concepita, quella sul lavoro, ma sul sistema pensionistico, ma mi ha stupito positivamente da un certo punto di vista quella. Io non avrei usato tanto, ma sarei riuscito a pensare di poter bloccare anche l'aumento di alcune pensioni che considero estremamente basse. Però al di là di quello ci sarà la possibilità di migliorarla, perché io non vorrei che noi partecipassimo, perché la Germania ce lo chiede, facessimo partecipare l'Italia alla maratona a New York con una differenza di peso. La Germania è in forma, è preparata, allenata, e noi abbiamo 20-30 kg di troppo. Se non possiamo accettare le stesse regole tout court che ci imporrebbero i tedeschi, avendo un sistema pubblico che costa il 52% del prodotto interno lordo italiano, e non possono fare nella manovra almeno i primi semi della volontà di cambiare, di toccare questo sistema pubblico, cioè di andare a immaginare di togliere un po' di peso dalle spalle dei cittadini piuttosto che aumentarlo tutti i giorni con una tassazione che secondo me è arrivata al momento di rottura. Per cui parlare di queste cose non significa criticare il governo, significa mettere sul tavolo elementi di riflessione, senza essere accusati di essere eretici, di volere il male dell'Italia. Poi, per carità, se il governo mettesse la fiducia, io so perfettamente che il segnale italiano deve essere univoco, ma ciò non toglie che io oggi sono orientato a far parte di una commissione di cui ho fatto parte per 7 anni, cioè quella bilancio della Camera, lo potrà nella difesa, io alla Camera, mia funzione parlamentare, qualche idea per inserire sia un po' di sviluppo, sia per toccare uno Stato in cui il costo non è più sopportabile, tentavo di farlo. Morando, posso chiederle, a suo giudizio, il sostegno parlamentare, che alla fine ci sarà su questa manovra, ogni parte politica tra PD e PDL delle maggiori ha il suo spazio di intangibile autonomia, ed è così, ed è giusto che sia così, è evidente che il PD ritiene che alcuni punti, per esempio la spolverata data con l'1,5% in più a chi aveva scudato i capitali rispetto a un ordine di grandezza 10 volte maggiore richiesto dal PD, siano inadeguati, come chi ritiene nel PD che la parte sulle pensioni sia in alcuni punti troppo dura, e come ancora nel PD ma nel sindacato tutti sottolineano che la patrimoniale non c'è ancora, dall'altra parte il PDL ce l'ho appena detto, ma in realtà ritiene Morando che in questi giorni decisivi di qua all'Eurovertice, sul punto preciso che lei ha toccato nel primo intervento, che anche secondo me è quello prioritario in questi giorni, assolutamente prioritario, ho ottenuto un giudizio complessivamente positivo dei mercati europeo ma anche di tutti i giornali europei oggi, per esempio un giornale che mi ha colpito, La Stampa oggi di Torino, a pagina 14-15 ha allineato le voci dei corrispondenti di autorevoli giornalisti di Le Monde, di Frankfurter Allgemeine, Financial Times, La Vanguardia, Eonos, quello Ethnos, scusatemi, la testata greca, e di NHK World giapponese, e tutti danno un giudizio sul governo che è positivo. Poi, al di là del merito dei diversi provvedimenti, tutti dicono questo esecutivo ha dato un segnale molto forte. Alla luce di questo, secondo lei PD e PDL riescono anche in questi giorni ad avere il tempo, il modo di parlare con il Premier Monti per mettere a punto quale debba essere la linea italiana all'Eurovertice? C'è una linea italiana all'Eurovertice tra la posizione francese e tedesca che abbiamo descritto all'inizio e che ha richiamato anche lei? In che cosa consiste? Solo nella visione personale di Monti, che pure ha dato una mano molto forte alla costruzione dell'euro edificio così com'è, alcuni dicono che addirittura è persino troppo implicato anche nei difetti dell'euro così com'è nato, oppure su questo poi c'è un margine riservato di confronto politico per dire all'Europremier: bene, tu la pensi così, ma noi vorremmo così e cos'ha. A cosa sarà affidata in realtà in quelle ore decisive al tavolo dell'Eurosummit la posizione dell'Italia, secondo lei, Morando? Beh, guardi, per la verità su questo punto, almeno a parole, anche in presenza del governo di centrodestra c'era in Italia un orientamento comune. E cioè si diceva, gli ascoltatori ricorderanno la discussione sui cosiddetti Eurobond, in realtà era una discussione allusiva che parlava di un aspetto, per parlare di una iniziativa più generale, rivolta a dire ci vuole per salvare l'euro e quindi per evitare il fallimento dell'Italia, del debito pubblico italiano, che è possibile, e adesso forse finalmente l'hanno capito tutti, bisogna che ci sia un salto di qualità nel processo di costruzione di una politica economica e fiscale alla dimensione europea, perché abbiamo fatto l'euro, abbiamo fatto la banca centrale, ma non abbiamo un governo dell'economia e tantomeno della politica di bilancio pubblica alla dimensione europea. Bene, questa posizione, che in passato abbiamo sostenuto retoricamente, non trovava nessun aggancio reale nelle iniziative che in Italia stavamo conducendo e si venivano praticando in funzione della riacquisizione della credibilità necessaria per sostenere queste prospettive in Europa credibilmente. Adesso questa credibilità, diciamo, con il governo Monti l'abbiamo almeno in parte recuperata, e intendiamoci bene, l'abbiamo recuperata grazie alla iniziativa del Partito Democratico e del Popolo della Libertà, che ha diciamo, affidato la gestione di questa iniziativa al governo Monti in un contesto nel quale su questo punto c'è una intesa alla dimensione nazionale. Io sono convinto che sono le ore queste nelle quali si decide. L'altro giorno il professor Vaciaga ha usato un'immagine che io trovo purtroppo molto efficace. Il sistema euro è come una torre. nella quale si entra dalla porta, ma si può uscire solo dalla finestra. I tedeschi stanno al primo piano, gli italiani al dodicesimo. Possiamo uscire, certo, ma se usciamo dal dodicesimo piano, dalla finestra, ci facciamo del male. E quelli che si fanno male non sono quelli che hanno grandi mezzi di relazioni e grandi mezzi economici, sono le persone che stanno male. In questo contesto bisogna dare un giudizio sulla manovra e io penso che in questo contesto bisogna collocarsi per sostenere le proposte alla dimensione europea. Non si tratta di fare quello che ci chiede la Germania, si tratta di fare quello che è nell'interesse dell'Italia e che può coincidere da un certo momento in poi con quello che vuole la Germania. Eccoci tornati, sono tantissime le mail e sms che abbiamo ricevuto ieri da ascoltatori, come tantissime le ha ricevute il Sole 24 Ore dai suoi lettori. Sono stati ovviamente i due pilastri essenziali della manovra, cioè l'introduzione dell'imposta sulla prima casa, l'anticipazione dell'IMU o il ripristino dell'ICI, prima casa se preferite, uno dei due pilastri. L'altro è il complesso intervento sulle pensioni, con l'accelerazione dell'adeguamento dei tetti di vecchiaia e di anzianità, l'innalzamento del tetto di vecchiaia, la stop alla perequazione dei trattamenti. La casa è sicuramente il pilastro dal punto di vista della cassa e degli effetti della manovra che è più forte. Richiamo ancora oggi come ieri, chi avesse qualunque dubbio, trovate su molti giornali, ma in particolare trovate sul Sole 24 Ore a pagina 15, rispiegato con grande precisione come funziona il nuovo meccanismo che ha rivalutato del 60% il moltiplicatore da affiancare per calcolare la base imponibile alla rendita catastale, che resta aumentata del 5%, come si diceva prima. L'effetto, mi hanno fatto notare in molti che dicevano ieri, avessi ripreso quasi tutta la stampa italiana che parlava in maniera semplificata del 60% di aumento delle rendite catastali, ripeto, non è lo stesso, perché il moltiplicatore di un 60% in più a una rendita catastale aumentata del 5% colloca gli effetti della base imponibile così ampliata alla nuova imposta immobiliare. Se avessero posto mano a una rivalutazione secca del 60% di tutte le rendite catastali, questa base imponibile amplificata del 60% varrebbe come riferimento per tutte le imposte immobiliari locali tipo TIO e TARSU, e anche per il calcolo del reddito che, da cui poi personale o delle persone giuridiche che si ricava dalle unità immobiliari. Resta il fatto che questo parametro aumentato in maniera così significativa al moltiplicatore rende la reintroduzione dell'imposta sulla casa sicuramente il più grande aggravio di cui gli italiani si renderanno conto, che si aggiunge poi a quello delle addizionali locali, alla estensione del conto titolo bolli che era stato fatto dal governo Tremonti e che adesso vale per qualunque strumento di risparmio. Sul Sole 24 Ore di oggi, a pagina 15, un articolo di Saverio Fossati, trovate spiegato come con questa nuova imposta immobiliare si vada ben oltre l'ISI che venne introdotta ai tempi del governo Amato per anticipare l'ICI stesso, perché in parole povere con l'introduzione ai tempi di Amato c'era stato un esborso secco del 20% rispetto alle rendite catastali che all'epoca erano entrate in vigore. Oggi invece l'aumento corrisponde all'incirca un 53,5% delle nuove rendite, cioè in soldoni, scrive Saverio Fossati, se nel 92 avevamo pagato rispetto al passato 20 euro in più per ogni 100 euro di rendita catastale, oggi ne pagheremo 53. Allora, su questo punto della casa, io chiedo a Guido Crosetto, è chiaro che per il PDL, che aveva abrogato in questa legislatura l'ICI prima casa, questo è il punto, diciamo, più duro da buttare giù rispetto alle pensioni, nel quale invece lei ha ammesso, il PDL considera l'intervento addirittura oltre rispetto a quello che era nelle rose aspettative. Le chiedo, il bilancio da trarre con onestà e guardando al futuro non era che l'abolizione ICI prima casa era una specie di lusso che non ci si poteva permettere in questa legislatura e che per di più apriva una ferita profonda rispetto ai tempi lunghi del federalismo così come l'aveva voluto la stessa Lega, anche se la Lega oggi sembra passata all'opposizione e non capisco come si metta insieme i toni della Lega rispetto al 2019 e dei decreti attuativi del federalismo che aveva disegnato con Calderoli insieme a voi. In realtà non si poteva ammetterla questa cosa e stare meglio dove stavate, cioè con la responsabilità diretta, piuttosto che dire no, no, no, continuare a dire no anche adesso, ma non si capisce sostituendo questi 11 miliardi con che cosa. Oppure secondo lei si sarebbe trovato il modo di trovare 11 miliardi rispetto a come li raggranella con questa sberla sulla prima casa e oltre che sulla seconda l'attuale governo? Che dice Crosetto? Beh, beh, beh, quando siamo partiti 3 anni e mezzo fa, l'idea dell'eliminazione dell'ICI era collegata all'idea di un dimagrimento dello Stato. Cioè, quello che non c'è stato in questi 3 anni e mezzo, mi sono permesso di dirlo più volte, è stato il fatto di intervenire sulla parte che genera questa spesa pubblica. Cioè, se io continuo a fare tagli o aumentare tasse, ma non intervengo sulla parte generatrice di spesa pubblica, cioè non vado a vedere le differenze macroscopiche che ci sono in italiani da un comune all'altro, da una provincia all'altra, da una regione all'altra, sulla spesa sanitaria, sulla spesa dei farmaci. Cioè, se non mi rimbocco le maniche e metto le mani nella melma e vado a vedere caso per caso, punendo gli enti che vanno puniti e premiando quelli virtuosi, cioè, fin quando non inserisco la regola sanpaoliana del discernimento quando analizzo lo Stato e la pubblica amministrazione, fin quando non inserisco meccanismi per cui personale che ha il 70-80% di assenze dal lavoro non posso lasciarlo a casa e non posso premiare invece il dipendente pubblico che lavora, è presente, magari fa gli straordinari che non gli vengono più pagati da un anno, cioè, fin quando non inserisco i meccanismi, certo che non posso eliminare nessuna tassa, dovrò introdurre sempre altri. Per cui la scommessa, secondo me, che chi ha voglia di interpretare una politica diversa deve fare è anche questo. Perché, guardate, io sono d'accordo, l'Europa, i conti pubblici, l'Ocse, eccetera. Noi dobbiamo poi fare conto, il popolo. Non è l'Ocse, non sono gli olandesi, non è l'Europa che paga le tasse, che deve pagare l'ICI, che deve scontrarsi tutti i giorni con dei soldi che non... Io sono preoccupato, scusatemi se passo da un ragionamento economico a uno più politico, del fatto che in un momento così questa manovra di cui non si intravede la fine del tunnel dà alla Lega un potenziale distruttivo dell'unità del Paese senza precedenti. Cioè, questa è la mia preoccupazione. La parte più ricca del Paese, colpita ancora una volta più dell'altra parte, perché chi è più ricco paga di più, in questo caso non perché ci siano altre diversità, con una Lega libera, unica all'opposizione, rischia di prendere fuoco e di trovare poi sia all'interno del PD che del PDL esponenti del Nord che si allineeranno su questa nuova strada. Guardi, se non c'è un equilibrio di questa manovra, che spieghi intanto che i sacrifici sono di tutti, ma intanto che alla fine dei sacrifici c'è un miglioramento, non per me, c'è per mio figlio, non per me, c'è per mio nipote, in cui sia chiaro che lo Stato ha deciso di cambiare, che da domani la burocrazia che non funziona verrà in qualche modo finita, che i tempi in questo paese, che sono 5 volte superiori rispetto a quelli tedeschi, in qualche modo verranno diminuiti. Cioè, se noi introduciamo anche questi elementi, ma soltanto una cosa che viene percepita come un salasso fatto da una classe politica che ha perso la dignità di guidare la politica e che quindi sarà guidata dal popolo. Cioè, la somma distruttiva in questo momento è che la mancanza di credibilità totale della classe politica, che si adeguerà ai movimenti di popolo perché non è in grado di guidarli, e l'ha dimostrato col governo tecnico che parte sì con un grandissimo atto di nobiltà politica fatto dal PD e dal PDL, come diceva prima Morando, di delegare a persone terze la salvezza del paese, ma fa sì anche che la politica sia nel momento più debole degli ultimi 50 anni e che quindi se partirà al nord un movimento che la Lega alimenterà in modo dissennato, secondo me, come farà nei prossimi mesi, non corroborato, ripeto, a fronte dei sacrifici di qualcosa di positivo, difficilmente questa manovra, che sarà positiva dal punto di vista economico e della credibilità europea, avrà effetti positivi nel paese tra la gente comune. Io le dirò, Crosetto, che la mia opinione è che lo spazio dell'emergenza della difesa dell'euro non esaurisce che quello spazio di oggi per cui è nato questo governo, e io l'ho sostenuto nei limiti della ragionevolezza perché mi sembrava che quello precedente avesse perso ogni credibilità, non esaurisce secondo me affatto tutto il compito, il tentativo di radicare in Italia una forza liberale che voglia uno Stato più magro, più efficiente. La mia opinione, per esempio, in questa manovra non ci sono due cose nette: non c'è l'abbattimento del debito pubblico, che per chi ragiona come me si fa attraverso una massiccia dismissione per 20 punti di PIL almeno di mattone di Stato, si può fare, sappiamo perfettamente tra detto ai lavori che si può fare, non c'è quello è la maniera per dire agli elettori come farlo dimagrire da subito per l'abbattimento del debito lo Stato. Non c'è neanche il riequilibrio ordinamentale nel sistema fiscale tra meno peso fiscale su lavoro e impresa per crescere di più, e deve essere un riequilibrio significativo per spostare su altre poste tra l'indiretto e forme patrimoniali il peso che deve essere sottratto a chi regge in piedi il tasso troppo asfittico di crescita italiano. Faccio queste due proposte che per me sono da sempre fondamentali, perché è su questo che si è misurata la mancanza totale di credibilità che aveva raggiunto il centrodestra, e mi dispiace, credo anch'io che se la politica inseguirà demagogicamente la protesta all'euro, ai tecnocrati, racconterà slogan, si dimenticherà di quello che non ha fatto in questi anni, sarà una politica da avversare, perché non è di questo che ha bisogno l'Italia, ha bisogno di fatti concreti. Secondo me c'è una prateria per chi vuole ripartire dal basso proponendo cose di questo genere, perché ci vuole discontinuità rispetto al passato, rispetto ai leader del passato, di quel centrodestra, Berlusconi, Tremonti e così via, ma questa è solo la mia opinione personale. Adesso abbiamo il minuto sulla informazione stradale con la stessa critica con cui abbiamo toccato il punto scoperto del PDL sulla casa. Ripartiamo subito chiedendo a Enrico Morando il punto più aperto invece per l'elettorato e per l'opinione pubblica che si colloca sul versante del centro-sinistra, quello dell'equità sociale, di interventi troppo duri sulle pensioni, ma soprattutto ciò che manca da questo punto di vista, a giudizio anche di molti ascoltatori che dicono non si tocca abbastanza chi ha ancora di più. Perché i professori su questo ci hanno deluso? Che cosa si può fare di più? Che cosa è più giusto fare perché la ripartizione degli oneri non sia solo attraverso casa e pensioni, soprattutto sui soliti, quelli a cui si pescano sempre le mani in tasca? Questa è la domanda per Morando, appena però avremo sentito l'informazione sulle strade. E mentre riparte, come sempre, in conclusione, come in apertura, The End dei Doors, il grandissimo Jim Morrison, che stia alla destra del padre, questo è il mio auspicio, qualunque fosse il padre nella testa di Jim Morrison, ma aveva una gran testa, se permettete. E la domanda per Morando l'abbiamo fatta prima di interromperci per il collegamento sulle informazioni sulle strade: come, che risposta dare ai tanti, ai tantissimi che chiedono in realtà non si è toccato abbastanza chi sta su nei patrimoni e nei redditi, in realtà che, qual è il punto che davvero ci dimostra che la promessa maggiore equità sociale della sostenibilità della manovra dei professori davvero è stato rispettato e non è solo uno slogan? Come si risponde a chi dice così? Ma guardi, io penso questo, che sulle pensioni c'è effettivamente una cosa che secondo me merita un giudizio negativo, ed è la vicenda del mancato adeguamento all'aumento dei prezzi delle pensioni al di sopra di 980 euro, cioè due volte il minimo, perché tutte le altre misure sulle pensioni sono sì dure, difficili da sopportare per le persone che vengono immediatamente interessate, naturalmente sono decisioni che cambiano la vita, io ho il massimo di comprensione, però riconosco che le misure, a parte quella di cui dirò, sono organizzate in modo tale da mettere fine ad una situazione che caratterizza ancora il sistema previdenziale italiano, e cioè trattare in modo diverso gli iscritti al sistema previdenziale pubblico. Sì. Con la misura, con l'insieme delle misure previste dal ministro Fornero, questa disparità di trattamento viene superata. Perché la deindicizzazione, cioè il mancato adeguamento ai prezzi delle pensioni al di sopra di quel limite di cui ho già detto, è invece contraddittoria con questo principio? Perché se la mia pensione bassa è indicizzata ai prezzi, mentre un'altra pensione appena appena più alta non lo è, è del tutto evidente che stiamo reintroducendo una disparità che non è coerente con le caratteristiche fondamentali del sistema. Secondo me lì ha prevalso una esigenza di avere immediatamente dei risultati dal punto di vista del risparmio, che invece le misure più coerenti dal punto di vista del disegno di un sistema che tratti tutti allo stesso modo nel campo previdenziale fanno parte di questo disegno di legge, di questo decreto. E da questo punto di vista io mi chiedo se lì non si debba concentrare una correzione del testo, o nel senso di mitigare questa iniziativa che interessa la stragrande maggioranza delle pensioni che non siano bassissime, oppure nel senso di scrivere in norma subito che noi, esauriti i 2 anni nei quali è necessario chiedere questo sacrificio straordinario, ripristineremo, per evitare il fenomeno delle pensioni dannata, ripristineremo l'aggancio all'aumento dei prezzi recuperando i due anni perduti. Tra l'altro questo sarebbe coerente con il fatto che dal terzo anno in poi la riforma complessivamente produce risparmi con quei risparmi si potrebbe coprire, diciamo, il recupero dei 2 anni di adeguamento che i pensionati avrebbero perso. Dal punto di vista invece della patrimoniale, l'imposta patrimoniale c'è. Adesso, se lei somma gli 11 miliardi, diciamo, sulla componente immobili, più la componente che riguarda l'introduzione di prelievi di varia natura su tutta la vicenda bollo del conto titoli, le barche, gli aerei, le macchine di lusso, eccetera, noi abbiamo una situazione nella quale c'è una imposta patrimoniale sostanzialmente concentrata sui beni immobili. Ora, la mia opinione personale è che ci sia bisogno in Italia di una patrimoniale ordinaria a bassissima aliquota sull'insieme del patrimonio, non solo sulla sua componente immobiliare. Da questo punto di vista vedo un limite, ma un limite che è coerente con una impostazione, per esempio in questo caso del Partito Democratico, che anche a luglio, quando presentò gli emendamenti alla manovra del governo, presentò una proposta di patrimoniale sulle grandi fortune immobiliari, quindi diciamo non si può dire oggi che il governo abbia sbagliato se ha fatto grosso modo quello che noi abbiamo proposto a luglio. Resta la mia opinione sul fatto che se patrimoniale deve essere, e a mio giudizio deve essere, si dovrebbe trattare di una patrimoniale che riguardi l'insieme del patrimonio e non soltanto la sua componente immobiliare. Volevo solo aggiungere che per la verità, mentre io le do ragione, ma questo non è l'unico provvedimento che farà questo governo, spero che su questo versante ci saranno altre novità presto, mentre io le do ragione sul punto che riguarda l'utilizzo del patrimonio, mancato utilizzo, a me da giudicare da questo decreto, del patrimonio pubblico per abbattere il debito, continuo ad essere convinto che un aggiornamento della vecchia proposta Guarino a questo proposito sarebbe assolutamente da realizzare per ridurre, utilizzando il patrimonio pubblico, il volume globale del debito. Non mi sento di condividere invece la critica circa il fatto che non ci sia nulla in questo decreto su meno pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa e più sulle cose. Su questo ha ragione, io vorrei un riequilibrio proprio ordinamentale tra il diverso peso che hanno le imposte, cioè farei una scelta più evidente che riguarda non solo la deducibilità IRAP, per esempio componente lavoro, ma scelga proprio di diminuire sul reddito da lavoro, sul reddito d'impresa il peso per metterlo altrove, e, tra l'altro utilizzando esattamente indicazioni come quelle che diceva lei. Comunque, la mia opinione è che la sinistra ragionerà meglio del centrodestra, ho l'impressione. Su questo governo c'è ampio spazio per una forza liberale, se vuole ragionare sulla base della discontinuità. Appuntamento domani, Linea Generale Radio.